Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. E saremo presenti fino alle 21.30, ma prima di tutto, sigla. Bene, questa era la sigla di inizio per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21.30 e oltre a dirvi che il brano era Retribution dei Behind Enemy Lines, e ora invece andiamo all'ascolto di questa band svedese da un loro album datato 2000. Loro sono gli svedesi Uncurbed, è una band che è stata attiva anche negli anni, tutti gli anni 90. Comunque questo è il loro album, come ho già detto, datato 2000, che si intitola Keeps the Banner High. Ci ascoltiamo un paio di brani. We'll be right back. Allora, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. E, allora, oggi parleremo di quelli che vengono definiti in un articolo dell'ultimo numero di Nunatak i no borders della repressione, ovvero sia degli stati con i loro apparati giudiziari, legislativi, giudiziari e polizieschi. Allora lo faremo con un ospite, tra un po' appunto sì, ci sarà ospite attraverso una telefonata, una compagna di Milano dell'assemblea Sosteniamo Vincenzo. Si tratta di Vincenzo Vecchi, un compagno che è incriminato per il reato di devastazione e saccheggio, e che per i fatti di per le insomma i fatti di Genova, le manifestazioni contro il G8 di Genova nel 2001 e anche per una ulteriore manifestazione antifascista svoltasi a Milano nel 2006, per il quale però sembra che la pena sia già scontata. E questo compagno adesso si trova sotto minaccia di mandato di arresto europeo, appunto Corte di Cassazione di Parigi si esprimerà su questo l'11 ottobre prossimo e vedremo poi con la compagna, insomma approfondiremo vari concetti. Quindi abbiamo nominato questo discorso degli stati che ammazzano, diciamo, ammazzano gli oppressi e le oppresse attraverso le frontiere, i confini, e nello stesso tempo utilizzano e distruggono, diciamo, per i loro interessi queste frontiere, questi confini, per creare questi meccanismi di controllo sovranazionale schiacciante che imprigiona anche, non dà possibilità di scampo, diciamo, ai rivoltosi di tutti i paesi. Bene, allora magari adesso mandiamo ancora un pezzo e in attesa del collegamento con la compagna. Quali sono? Sits alone and vents his pain. Same old backsides again. All the small ones tell to tales. Walking home, it's worse in town. Oh, what well, fun we had. But did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend and break the rule. Oh, what well, fun we had. But at that time it seemed so bad. Trying different ways to make sure we were through the day. Boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking push bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes through breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make the difference through the day. Daddy dresses, daddy dresses. Allora, come annunciato poco fa, siamo in collegamento in diretta con una compagna di Milano dell'assemblea Sosteniamo Vincenzo. Ci sei? Sì, pronto. Ciao, sì. Ci sono a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, io ho introdotto così brevemente, ho detto che parleremo di cosa parleremo stasera. Intanto ti chiederei di raccontare un po' la storia di Vincenzo. Certo, sì, assolutamente. Allora, se per voi va bene, io partirei dal G8 di Genova. Sì, direi di sì. Se invece volete parto da più avanti. No, secondo me vale la pena di partire proprio dal G8. Ok, va bene. Allora, G8 di Genova 2001, a cui abbiamo partecipato in tanti compagni, tra cui anche Vincenzo, ma anche io, mm-hmm. E anche magari tanti altri di noi, sì, infatti che siete lì e che sono all'ascolto. E vabbè, era uno dei tanti, no, controvertici di matrice anticapitalista e antiimperialista che si opponevano a queste riunioni del G8, quindi dei potenti della terra che stavano ridefinendo una serie di strategie rispetto alle quali si è mobilitata una critica anche sui territori e sulle strade. Genova non è stato, no, l'unico momento, no, di controvertice, perché è stato preceduto da altri, da Seattle, Praga, Nizza, mm-hmm. Gothenburg, in Svezia, Napoli, eccetera. Certo. Però a Genova 19, 20 e 21 luglio 2001 poi abbiamo assistito a una reazione di Stato, poi attraverso gli organi di polizia, che è stata estremamente brutale. Non è sicuramente stato l'unico controvertice in cui ciò è accaduto, però sicuramente lì abbiamo avuto una reazione piuttosto grossa. Chi c'era penso che se lo ricordi piuttosto come uno spartiacque, bene. Diciamo come uno spartiacque, esattamente. Io che c'ero mi ricordo mi sono anche me lo ricordo bene, che perché abbiamo letto e abbiamo visto tante cose. Abbiamo avuto più di 18.000 effettivi tra carabinieri, polizia e finanzieri, sì, che erano presenti durante le tre giornate. Poi va bene, c'è stato Bolzaneto, la scuola Diaz, e ovviamente poi alla fine in mezzo il 20 luglio l'omicidio di Carlo Giuliani, per cui poi alla fine tutto quello che è stato fatto a livello di giuridico non ha avuto poi un seguito, nel senso che poi il tutto è stato archiviato. Per cui insomma il contesto a cui si fa riferimento è un po' questo. Certo. Senza dimenticare che poi invece, perché a seguito di tutto quello che è successo a livello di repressione, poi spesso si dimenticano i contenuti, invece ce n'erano anche tanti e anche molto interessanti. Il 19 luglio era il corteo per i migranti, no? Per le questioni sull'immigrazione che oggi sono così anche alla ribalta, non oggi ma anche già negli ultimi anni. Mm-hmm. E rispetto alle quali poi, a seguito di quanto è successo, è stato dato anche poco seguito a livello di contenuti, di riflessioni, eccetera eccetera. Ricordo, apro e chiudo parentesi, che tra l'altro oltre al fatto che il processo di rispetto a Carlo è stato archiviato eccetera, nel 2020 abbiamo anche appreso la notizia della promozione da parte del ministro dell'interno Lamorgese e del capo della polizia Gabrielli di alcuni funzionari, in particolare due che erano all'interno di questa messa in scena della scuola Diaz. Uno aveva introdotto le Molotov all'interno della scuola e il secondo aveva poi prodotto dei documenti falsi attestandone il rinnovamento, e questi poi nel 2020, che tra l'altro erano stati giudicati e condannati, sono stati poi promossi. No? Quindi anche questa è una notizia. La dice lunga. Su come si comporta lo Stato, sì. Su come si comporta lo Stato l'avevamo già sottolineato, però in altri momenti, perché vabbè, sono già passati 2 anni, però penso sia importante ribadirlo, infatti. E niente, dopo il 2001 poi ovviamente è partito un processo, no, di natura politica di cui immagino tutti siamo a conoscenza, che è durato più di 10 anni e che ha avuto diversi gradi di giudizio, nel senso che abbiamo avuto una sentenza di primo grado a fine del 2007 a seguito della quale 25 manifestanti sono stati condannati a circa 110 anni di carcere. Mm-hmm. E 10 di questi per il famigerato reato di devastazione e saccheggio. Sì. Sul quale poi magari spendiamo delle parole. Mm-hmm. 2 parole, esatto. Un paio d'anni dopo, verso la fine del 2009, è stata emessa la sentenza di secondo grado di questo processo. I manifestanti condannati sono passati a 10, quindi ci sono stati prosciolti. Sì. 10 manifestanti condannati per un totale di 100 anni di carcere. E poi la questione si è conclusa il 12 luglio del 2012 quando c'è stata la Cassazione qua, e alla fine sono stati condannati immediatamente 5 manifestanti, 5 rinviati a giudizio sui 10 precedenti. Sì. E per verificare se erano promotori o partecipanti di tumulti di piazza, e comunque poi alla fine condannati nell'anno 2013, quindi l'anno successivo. Mm-hmm. E durante questo decennio in Italia si è parlato parecchio di Genova, si sono fatte iniziative, dibattiti, raccolte fondi, eccetera eccetera, però la questione di Genova purtroppo qua almeno ci ha segnati, nel senso che c'è stata tutta la questione della divisione, visto che comunque la partecipazione, no, a questi controvertici era estremamente ampia e le cose erano abbastanza grosse e le mobilitazioni pure erano a livello internazionale, si è creato un dibattito che ha prodotto comunque un almeno iniziale divisione, no, tra buoni, cattivi, eccetera, sì, e sì. Questo sicuramente ha prezzato il fianco alla repressione, alla repressione che, in maniera pesante, sì. Che ancora oggi viviamo, e poi successivamente ciò ha prodotto delle difficoltà, no, ad organizzare la pratica politica in Italia almeno per un buon decennio, e posso dire che mm-hmm. anche oggi comunque si fa fatica qua in questo paese ad affrontare la questione in maniera come dire, neutra, tranquilla, no? Questo l'ho compreso andando in Francia e capendo invece le mobilitazioni che ci sono altrove, no? Dove non c'è stata Genova, sì. Rispetto a questa questione, e io stessa mi sono resa conto di questi passaggi e di queste difficoltà, insomma. Scusa, vuoi dire anche, se ho capito bene, in qualche maniera che quello che è successo a Genova dal punto di vista della repressione e poi anche dal punto di vista delle situazioni divisive, diciamo, all'interno del movimento antagonista, ha creato, cioè ha fatto sì che ci sia stata come una specie di sì, cioè la repressione è stata come introiettata, diciamo, in Italia, in qualche maniera si è creato come una specie di cortocircuito, sì. Mentre in Francia, ad esempio, c'è il discorso anche della divisione buon black bloc, non black bloc, per dire, non esatto. Gliene frega niente, cioè non hanno enfatizzato sta roba. Questo punto di vista, questa percezione o questo sentore non esiste minimamente mm-hmm. lì, l'ho proprio verificato mm-hmm. con mano, e poi adesso stasera ne parlerò. Mm-hmm. Rispetto alla solidarietà che immediatamente si è sviluppata nei confronti di Vincenzo, che sì, sì. Qua è considerato, basta leggere, fare una ricerca e guardare gli articoli di giornale, e la nomea, no, che a lui viene data è quella dell'ultimo black bloc. Sì, sì. Sì, sì, una cosa mistificatoria, eccetera, eccetera. Sì. Mentre invece là assolutamente, no, viene messo molto in primo piano, o comunque molto più sotto il riflettore, no, la violenza della polizia, certo. E quello che è stato Genova a livello di repressione nei confronti di un movimento che comunque era abbastanza eterogeneo, no? Mm-hmm. Quindi c'era di tutto ed è successo quel che è successo, rispetto, no, a la figura di una o due manifestanti che potevano essere lì e che hanno partecipato comunque in maniera oppositiva e critica, questo assolutamente, all'interno di un controvertice di questo genere. Certo. Sì. Bene, poi niente, dopo il 2012 comunque Vincenzo ha fatto la scelta della latitanza, sì. È stato sì, perché comunque non ha deciso di non consegnarsi, insomma, nelle mani dello Stato. Ha deciso di non consegnarsi nelle mani dello Stato, esprimendo una propria opinione, anche una propria azione rispetto a quella che era la decisione della giustizia uh-huh. su un fatto di questo genere. È entrato in latitanza e poi dopo è stato arrestato nell'agosto del 2019 attraverso un'operazione di polizia internazionale in Bretagna, uh-huh. Quindi nella Francia nord-occidentale, sul posto di lavoro, sì, mentre infatti. Stava lavorando. E mi sembra che anche lì c'è stata subito una reazione solidale attiva da parte. Ah sì, lì assolutamente nel giro di 48-72 ore si sono costituiti proprio dei comitati, no? di sostegno e di solidarietà a Vincenzo, in primis nel luogo in cui lui viveva e che vive tuttora, che è Rochefort-en-Terre, mm-hmm. e poi anche nelle cittadine di fianco e poi piano piano anche in altre zone della Francia, Nantes, Parigi, poi piano piano Marsiglia, eccetera eccetera. Noi come Italia, come compagni dall'Italia, siamo andati, abbiamo avuto la possibilità di conoscere, di partecipare, e chiaramente anche oggi abbiamo dei rapporti stretti di collaborazione, di scambio di informazione, e proprio abbiamo potuto toccare con mano quello che dicevo prima, no? Sul discorso della solidarietà, cioè Vincenzo lì non è minimamente visto come l'ultimo dei Black Bloc, ma è visto come Vincenzo, che poi è un compagno, quindi si relaziona, fa, lavora, è inserito, eccetera eccetera, e quindi si sviluppa, no? Si è sviluppata questa solidarietà che critica fortemente, no? Tutto quanto è successo qua, quella che è stata la reazione dello Stato, della polizia, va bene, come strumento dello Stato, e ancora oggi si mobilita, poi dopo lo spiegherò meglio, in maniera grossa, sì. per la sua libertà. Certo, ma quindi possiamo dire... Quindi è proprio un modo diverso, no, di vedere le cose. Mm-hmm. Mm. Possiamo dire, da quello che hai detto tu, anche dalle cose che ho letto, insomma, così da varie parti, che la situazione di Vincenzo, diciamo, è paradigmatica per tutta la sua vicenda, no? Anche rispetto, appunto, a essere incriminato per quello, per devastazione e saccheggio, questo discorso del mandato di arresto europeo, eccetera. Nello stesso tempo è importante anche perché tutta questa mobilitazione, diciamo, a suo sostegno, in qualche maniera ha inceppato, no? Perché dal 2019 a oggi ci sono state delle... ha inceppato il meccanismo repressivo. Sì, esatto. Noi anche qua in Italia, quando facciamo le nostre assemblee qua a Milano, che è un po' l'ultima città dove lui ha abitato, questo ci diciamo, cioè questo, sì, livello di solidarietà sicuramente ha fatto sì che passassero questi 3 anni, no? Visto che lui è stato arrestato nel 2019 e che si sia avviato questo processo di corsi, ricorsi, cassazioni, sì, corsi di giustizia europea, eccetera, e per cui indubbiamente ha avuto il suo un ruolo forte, certo, assolutamente. Poi certo, questa vicenda è paradigmatica perché adesso, da un punto di vista giuridico, quello che succederà a Vincenzo va a segnare un po' dei processi, no? Immaginiamo, sì, che la sentenza che poi verrà emanata l'11 ottobre nella sede della Cassazione di Parigi, che è l'ultimo step, sì, dopo la Corte di Giustizia Europea che si è pronunciata il 14 luglio, sarà un po' prassi giuridica, perché lì poi si innescano, no, dei meccanismi che vanno ben oltre, no, la situazione del solo Vincenzo, certo, ma che riguardano appunto i mandati di arresto europei e il riconoscimento o meno del reato di devastazione e saccheggio, che è un reato che appunto c'è qua in Italia, ma ad esempio in Francia no, e esatto, che è di matrice fascista, perché, certo, è antico. Sì, sì, è stato traghettato fino ai giorni nostri, diciamo, quasi uguale a quando si è al periodo del fascismo, non è cambiato molto. Sì, che poi ormai, sì, è stato anche abbastanza utilizzato da dopo, sì, Genova 2001, certo, a parte, sì, sì, gli episodi di piazza, sì, negli ultimi 20 anni è stato usato anche all'interno delle carceri, sì, nei CPR, è stato usato, sì, anche nei CPR, sì, è vero. E tra l'altro abbiamo anche progressivamente altri compagni che sono colpiti da questo reato, come David. Sì, e ne abbiamo parlato, abbiamo anche fatto anche una telefonata su di lui, infatti. Che lui poi infatti, è già stato estradato, no? Adesso è che lui è già Vecchia. Stato estradato, infatti, a Civitavecchia. Sì. Esatto, che è una notizia di poco tempo molto fa. Recente. Molto allora, recente. Io adesso, siccome abbiamo parlato abbastanza, farei una pausa musicale, se sei d'accordo. Ok. E poi riprendiamo l'approfondimento sul mandato di arresto europeo e anche sulla doppia incriminazione. Magari okay. Ci illustri un po' in maniera approfondita queste cose. Va bene, perfetto. E poi sulle mobilitazioni. E poi chiaramente sulle mobilitazioni. Va bene. Ecco, intanto stiamo ascoltando in sottofondo e abbiamo ascoltato questa band tedesca ma anche direi con alcuni elementi dal Brasile e dal Cile, per questa band che comunque ha la base in Germania, e sono i Peace Charge dal loro album Anatomy of Action, è uscito l'anno scorso. E ovviamente tutto questo intanto che ripristiniamo l'intervento telefonico. Tutte, Ecco, siete sempre all'ascolto di Zardis Magnetics, programma condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine Trieste. E siamo ancora con la compagna di Milano dell'Assemblea Sosteniamo Vincenzo. Allora, ciao. Dicevamo reato di devastazione e saccheggio, no? Articolo sì. 419 del Codice Penale. Dico esatto. Solo una cosa che mi ha colpito. Allora, la Cassazione, in seguito al cioè dopo, diciamo, gli scontri di piazza del 15 ottobre 2011 a Roma, per i quali è incriminato David, appunto, ha dato questa definizione di del reato dell'articolo 419, cioè per definire in qualche maniera, no, questo reato: fenomeno di primaria grandezza di diffusa e grave distruzione, fatti che per il contesto e la portata recano turbamento non a persone o gruppi, ma alle condizioni stesse di sicurezza della vita associata. E quindi dice, al di là dell'aspetto quantitativo, reca offesa all'ordine pubblico, inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. Per dire, ecco, sì che... assolutamente, questa dicitura non mi ha fatto nuova, perché l'abbiamo vista anche noi nei vari corsi e ricorsi. Sì. E questa questione qui, no, del significato di ordine pubblico, ad esempio, è una dicitura, un concetto, un modo di vedere che per esempio in Francia non è comprensibile. Esatto. Credo che ci abbiamo messo quasi un anno, forse, senza riuscirci. Tra noi, che va bene, non siamo certo avvocati, siamo compagni, però abbiamo aiutato e prodotto tutto quello che potevamo produrre per mettere in contatto i francesi con gli italiani per chiarire. Però devo dire che i francesi, gli avvocati, non riescono a comprendere, no, questo concetto di ordine pubblico che esiste qua in Italia proprio da un punto di vista giuridico. Certo. Tanto che nel novembre del 2020, ad esempio, rispetto alla questione di Vincenzo, la Corte di Angers ha fatto questo pronunciamento veramente interessante, in cui sostanzialmente ha detto che non riconosceva, no, il reato di devastazione e saccheggio, e che a loro avviso questa persona sarebbe stata condannata ad una pena accessoria per quello che loro riconoscevano lì in Francia rispetto ai vari reati, perché la pena di Vincenzo è composta da diversi reati, tra cui il più grosso, no, quello che ha la pena maggiore, chiaramente quello di devastazione e saccheggio, sì, la cui pena va dagli 8 ai 15 anni. Poi ci sono altre cosette, quelle che normalmente avvengono nei fatti di piazza, resistenza, eccetera, eccetera. Quindi sono pene accessorie. Quindi rigettavano l'estradizione perché non riconoscevano, no, questa doppia incriminazione, cioè il reato, questo reato di devastazione e saccheggio, anche partendo dal fatto che appunto questo concetto di andare contro questo ordine pubblico, loro veramente anche con noi un anno a parlare di cos'è questo ordine pubblico, è stato veramente veramente difficile. Di conseguenza mi rendo conto perfettamente di cosa hai appena letto e delle difficoltà, no, che ci sono a livello europeo a comprendere, no, questo passaggio della doppia incriminazione a partire dal concetto di ordine pubblico e quindi poi al riconoscimento della devastazione e saccheggio. Il problema è questo dispositivo del MAE, no? Sì. che appunto ha colpito anche David e può essere esteso chiaramente a chiunque entri dentro questa maglia, anzi di mai ce ne sono veramente tantissimi ogni giorno, mandato di arresto europeo, sì, che è sostanzialmente questo strumento giuridico che si fonda, no, in primis sul principio di fiducia reciproca tra gli stati membri dell'Unione Europea, no? E che uno stato membro emette, no, in caso di arresto, al fine di ottenere una sorta di estradizione, perché non è esattamente, non sono la stessa cosa il mandato di arresto europeo e l'estradizione. Qui è un'estradizione semplificata, sì, no? Mm-hmm. Cioè che va a levare una serie di barriere per poi alla fine esercitare la pena che era stata emessa nello stato di appartenenza. È una procedura semplificata il mandato di arresto europeo, nel senso che è, diciamo, praticata dall'autorità giudiziaria, giusto? Quindi toglie di mezzo, diciamo, tutte le implicazioni politiche, ma in realtà diventa il MAE stesso uno strumento, esatto, politico, esatto, di... Sì, super, sì, esatto, oppressivo e repressivo, sì. E che si fonda, cioè il principio cardine, come abbiamo visto anche dal pronunciamento vincolante peraltro della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio di adesso, quindi del 2022, rispetto alla questione di Vincenzo, è uno strumento, no, che viene messo in primo piano perché si mette in evidenza soprattutto la collaborazione tra gli stati membri dell'Unione Europea, questo a discapito delle libertà personali, sì, e del diritto costituzionale poi dei vari stati appartenenti, tipo la Francia non riconosce devastazione e saccheggio, fa niente, nel senso che il MAE comunque, in virtù della collaborazione tra gli stati, secondo quanto emesso espresso, sì, al 14 luglio, la collaborazione fra gli stati è più importante, insomma, e per cui i francesi se ne dovranno fare una ragione, cosa che li ha un po' disturbati oltretutto, no? E questo evidentemente è lo stesso meccanismo, no, che poi si è visto con David e che si vede perché poi anche in Grecia tra l'altro, esatto, non esiste il reato di devastazione e saccheggio, no? Quindi è la medesima situazione. Mm-hmm. Ma quindi è importante appunto il più possibile inceppare questi meccanismi. Perché... Ma, allora, sì, sicuramente è importante conoscerli, no? Cosa che sì, bisogna imparare a vedere e fare, tipo, uh-huh, ammetto, anche noi, questa Corte di Giustizia Europea, non sapevamo neanche cosa fosse, fino a che non ce l'hanno prospettata, sì, che sì, non è la Corte dei diritti dell'uomo, a uh-huh, cui, ad esempio, anche qualche manifestante di Genova che ha subito percosse, sì, violenze, sì, si è rivolto a un altro organismo, no, che fa appunto capo alla Unione Europea e è diverso, ecco. Certo. E anche noi abbiamo, cioè io per prima a capire che cos'è questa roba qua. Beh, sì. Insomma, però bisogna imparare perché qua in Italia questo devastazione e saccheggio viene dato a ogni spesso e volentieri, il MAE anche, e per cui bisogna capire, informarsi sicuramente, capire, essere consapevoli E anche mobilitarsi contro queste cose. E poi certo, senza perdere tempo, anche senza stare senza tanto mobilitarsi contro questo, nel senso, certo, che le cose vanno avanti, non è che queste sono appunto macchine da guerra giudiziarie, diciamo, che non, esatto, che vanno, che sono comprese, nostre spese, sì, e a cui va data una risposta, insomma, certo. Mm-hmm. Certo. E arriviamo quindi un po' a quelle che sono la vostra risposta, idea di mobilitazione. Sì. Allora, intanto veramente devo dire, dalla Francia sempre, no, da almeno dal 2019, dalla nascita di questi comitati, c'è stato un lavoro incredibile di solidarietà, di sostegno, e con quell'ottica lì di proprio vedere Genova in un'altra maniera, certo, assolutamente, rispetto a come la si vede qua in Italia. Poi vabbè, c'è stato il Covid, sono passati comunque 3 anni, quindi ok, ci sono anche affievolite un po' di cose. Adesso, dopo che c'è stato il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, ci sono veramente da allora tutta una serie di iniziative, hanno già da agosto loro erano in piena attività e hanno subito fatto un presidio l'8 agosto scorso. Che era poi l'anniversario, diciamo così, dell'arresto esatto di Vincenzo, e c'erano 400 persone, che sono tante, no? Sì. Per una in un paese poi, no? Non in una città, in un paese, città, sì. Sì. In un paesino. Poi da lì, va bene, tribune stampe, giuridiche, politiche, conferenze. Poi hanno fatto una bella iniziativa sui ponti autostradali, sempre lì nella zona della Bretagna, con striscioni appesi in solidarietà di Vincenzo. Il 24 settembre faranno una mobilitazione a Nantes, che è una delle principali città lì in Bretagna, e poi va bene l'11 ottobre c'è la Cassazione a Parigi, perché ovviamente, no, dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, comunque la, che è vincolante, ripeto, perché è importante, la palla ripassa allo Stato, no, che ha la persona in oggetto, quindi in questo caso alla Francia, per cui a Parigi, alla Cassazione di Parigi, per cui l'11 ottobre è una data importante. Certo. Allora, noi qua in Italia, appunto, per rilanciare la solidarietà a Vincenzo, ma non solo, chiaramente, perché ormai da tutto quello che ci siamo detti abbiamo capito che sono questioni che chiaramente riguardano tanti, o hanno riguardato tanti e forse purtroppo riguarderanno altrettanti. Esatto. Per cui è importante seguire e capire, anche perché questa sentenza poi farà prassi giuridica, purtroppo, in un modo o nell'altro. Comunque noi da Milano, no, abbiamo organizzato questa assemblea in Conchetta il 18 settembre, che è domenica, dalle 4 in avanti, proprio per parlare e per riconfrontarci, per rilanciare la solidarietà in maniera più allargata, per parlare in maniera più ampia. Avevamo pensato come date poi per esprimere fuori, no, sui territori la solidarietà, il 1° ottobre come una data di iniziative diffuse, nel senso ognuno fa un po' quel che crede. Sì, nei vari territori, riscioni, quindi, dove si sceglie di fare. Nei vari territori, ognuno a seconda delle sue caratteristiche, disponibilità, può far quel che crede, che è un po' la logica dei francesi. Ognuno, cioè, c'è chi si occupa di teatro, c'è chi canta, fanno i cori. Ognuno con i suoi mezzi può dedicare, no, un'attenzione pubblica, no, quindi di strada, diciamo, di territorio, a questa situazione. E poi invece l'8 ottobre fare un'iniziativa più generale, più potenziata, e va bene, ne parleremo comunque. Noi pensavamo a Milano, no? Comunque ne parliamo il 18 e sentiamo anche gli interventi e le proposte. Certo, che cosa emerge nel corso dell'assemblea, e poi dopo faremo una sintesi, insomma. Bene. E questo è quanto. Bene, allora, sicuramente noi, diciamo, io che parlo, ma comunque noi qua friulani, non so se il 18 saremo in grado di partecipare, però sicuramente cercheremo di dare una mano il più possibile rispetto alle iniziative, sia quelle diffuse che quella, diciamo, più unitaria, potenziata. Allora sì, il 1° ottobre Tra l'altro noi siamo sempre in costante contatto con i francesi, mm-hmm. e gli facciamo sapere, quindi possiamo anche comunicare poi, sì sì, ecco, sì, e poi sì, chiaramente cosa, sì. dopo l'assemblea vostra del 18 magari ci risentiamo e ci diamo gli aggiornamenti, così gli aggiornamenti di cosa è emerso, esatto. In maniera definitiva, sì. Perfetto. Assolutamente, mm. bene, sì. Beh, allora noi ti ringraziamo. Grazie a voi per lo spazio, per la solidarietà. Sono veramente convinta che la strada, almeno io l'ho visto nella mia vita sia politica che personale, la strada della solidarietà è sicuramente quella vincente. Anche perché sì, è importante la solidarietà, è importante continuare a lottare, non fermarsi anche di fronte alle batoste, diciamo, che ci arrivano sulla schiena, certo, perché bisogna andare avanti anche sì. perché poi sono cose collettive, perché la repressione, una volta un giorno di qua, un giorno di là, poi dopo insomma se uno si arrende è finita, se uno si arrende è finita, esatto, giusto. Ma noi non ci arrendiamo, giustamente. Ah no, assolutamente. Bene. Va allora bene. Grazie, a presto. Grazie a voi, a presto, buona serata, ciao. Buon proseguimento. Ciao, ciao. Ciao. stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Bologna, i Lion Estates, dal loro 7 pollici datato 2012, Come mille altre volte. Stiamo invece ascoltando questa band che si è formata nel 2003 in quel di Modena, insomma zona tra Modena e anche, diciamo, anche Bologna, buttiamo dentro. Loro sono i No White Rag, questo è il loro album datato 2011, Silence is Violence. Si parla di rivolta. speranza di cui parlare. Poco sole, pochi giochi, i bambini guardano su, una scia graffia il cielo, occhi scuri cercano sé. Inventa madre, tu che sei dolce, storie impaurite di felicità. Presto sonno ci prenderà, suoni lievi la tua voce. Quattro di mattina piove piano, me li vedo in marciapiedi, trasparenti il buio e i neon, è solo un altro giorno. Ti svegli e sei dentro un sogno, mi dici dormi, guardi l'ora, una piega cancella il tuo viso, suoni lievi la tua voce. Sì, e appunto approfittiamo di queste note che avete appena sentito, che era un pezzo dei Franti che così parlava, diciamo, di Sabra e Shatila, e cogliamo questa occasione per appunto ricordare il massacro di Sabra e Shatila che è avvenuto tra il 16 e il 18 settembre del 1982, cioè 40 anni fa. Sì, è importante ricordare questo fatto. Si tratta appunto del massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, che si trovano a Beirut in Libano. Ci furono 2800 vittime rimaste nelle fosse comuni. Questo massacro fu compiuto dalle milizie falangiste libanesi, milizie di estrema destra cristiano-maronite, ma il mandante era Ariel Sharon, che al tempo era il premier israeliano, e naturalmente il mandante era lui e i suoi generali. E rispetto a questa vicenda è importante dire anche che gli Stati Uniti, la Francia e l'Italia furono proprio loro a convincere, diciamo, a spingere Arafat e l'OLP a far partire i combattenti palestinesi che si trovavano a Beirut Ovest, assicurando loro che i campi profughi, quindi i civili che rimanevano senza difesa con la partenza di questi combattenti, sarebbero stati in realtà protetti da una forza multinazionale composta proprio da questi tre paesi, cioè dagli Stati Uniti, dalla Francia e dall'Italia. E questo era frutto di un accordo con Ariel Sharon. Chiaramente Ariel Sharon, e come si definiva lui stesso, sono un ebreo nazista, e ha rotto questo accordo. Comunque gli stati erano consapevoli di questo, chiaramente, e quindi quando il 12 settembre l'ultimo soldato delle forze multinazionali se ne va da Beirut, lascia il campo libero a Sharon e ai suoi carri armati israeliani. E Sharon interviene insieme alle forze falangiste di Bechir Gemayel, che era il capo delle forze libanesi e anche il neoeletto presidente del Libano, diciamo sotto il comando dello Stato israeliano. E appunto Sharon e Gemayel si accordarono per ripulire i campi profughi dai terroristi cosiddetti, che secondo loro si annidavano nei campi profughi alla periferia sud di Beirut. Poi succede che il 14 settembre Gemayel viene ucciso in un attentato e Sharon coglie questa occasione per mandare carri armati a Beirut Ovest, circonda i campi profughi, dando poi il via libera all'incursione al macello nei campi profughi stessi di Sabra e Shatila ad opera delle milizie falangiste coordinate dai consiglieri israeliani. Appunto, ricordo, ci furono 2.800 vittime, tutte civili, e sì, è una cosa, diciamo, è una di quelle tragedie del popolo palestinese che ha segnato la memoria collettiva in maniera, direi, indelebile. Esiste un documentario interessante che si chiama I ragazzi, i bambini, insomma, di Sabra e Shatila, che così ricostruisce ciò che è successo in quei giorni e notti e attraverso proprio così lo sguardo, diciamo, di questi bambini che non hanno conosciuto altro, si può dire, che campi profughi, cioè che sono nati già e cresciuti già senza la loro terra d'origine, no? Cioè la Palestina. E sì, ci sembrava giusto, insomma, ricordare questo massacro. Sì, allora io questa sera avevo intenzione di, anche l'altra settimana in realtà, sto rimandando comunque, di parlare anche su leggi speciali 41 bis eccetera, attraverso così delle, la lettura e anche delle riflessioni a partire da un testo della, dell'avvocata Caterina Calia, però vabbè, ho calcolato male i tempi, insomma non è il caso, non si riesce, quindi si farà un'altra volta. E quindi concludo, diciamo, prima di salutarvi, ricordando un appuntamento importante di questo sabato qui a Udine. A partire dalle ore 14 in Piazza Venerio ci sarà una iniziativa, un presidio organizzato dagli studenti contro il Green Pass di Udine e anche di Trieste. Allora, è importante perché stanno arrivando tutta una serie di decreti di condanna e comunque, insomma, ci sono un sacco di persone che si sono impegnate contro il Green Pass e lo stato di emergenza, un po' in generale in regione, e stanno arrivando un sacco di, appunto, incriminazioni, decreti di condanna eccetera, denunce eccetera, per varie ragioni. A Udine nello specifico c'è stato arrivano un sacco di decreti di condanna relativamente a una manifestazione della scorsa estate 2021, e i decreti di condanna riguardano il fatto delle di queste manifestazioni non autorizzate, e questa qua è una cosa molto grave, una cosa veramente che va contro la libertà veramente di manifestare delle persone. Tra l'altro abbiamo parlato a lungo stasera del reato di devastazione e saccheggio. Ricordo che questa incriminazione è stata utilizzata nello specifico a Torino anche contro alcuni manifestanti durante le mobilitazioni No Green Pass del 2021 proprio, quindi per dire come si sta allargando anche questa cosa. Allora, questa iniziativa organizzata appunto dagli studenti contro il Green Pass di Udine e anche di Trieste ha lo scopo di informare su questa campagna repressiva, ma anche di è anche un benefit, diciamo, anche di raccogliere la solidarietà anche concreta relativamente alle spese legali che bisognerà affrontare, appunto, per affrontare questa stretta repressiva. Quindi tutte le persone che hanno a cuore la libertà, l'autodeterminazione, la libertà di cura, la libertà di scelta e anche la libertà di manifestare e di protestare contro tutto quello che ci stanno facendo, è invitato a partecipare. E io per stasera vi saluto e alla prossima. Mandi. C'è una potenza nella parola, parola lingua. Lingue! Lasciateci sentire. Lasciateci sentire! Posso solo mostrarmi, ma sono opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, opaco, ma fino a quando? Ma fino a quando? In fretta, così. Scavate in francese, in arabo, scavate in russo, corso, giapponese, in laotiano, svedese, scavate in tedesco, basco, in sardo, armeno, aramaico, scavate in ungherese, bage, indonese, in olandese, serbo, croato, sloveno, catalano, in macedone, scavate in turco, in spagnolo, tagalo, scavate in italiano e nel greco. Find time for kids on Sunday. I can't explain. Grace uncle for a grace. You're in one way traffic, can't you see? Before I head on crest, they're free. When if it's too late, don't come quite to me. Ascoltando in sottofondo, anzi li lascerò proprio in sottofondo mentre parlo, stiamo ascoltando Madness, band inglese, diciamo band ska mod degli anni 80, e questo sono questi dal loro album Absolute. Bene, allora siamo così, prima proprio di lasciarci completamente, vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci in modo con la posta elettronica potete farlo tramite intestando a liberetutti@autistiche.org, oppure se volete farlo in forma cartacea intestate ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129 Trieste Centro 34 121. Inoltre questa puntata, ma anche tutte quelle scorse, potete riascoltarle nel blog zardismagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo giunti al termine, vi ricordo che questa trasmissione è in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30 e quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Vi lascio con questa band statunitense e loro sono i Fobia, e anche se una band un po' dalle classiche sonorità grind metal, comunque è una band che si era formata negli anni 90, questo è un loro album datato 2004 che si chiama Get Up and Kill. Loro sono i Fobia, direttamente dalla California.